Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel discorso pronunciato a Bari per lanciare la sua candidatura alla guida del PD, Nicky Vendola mette sullo stesso piano Falcone, Borsellino e Carlo Giuliani. Ma c'è una certa differenza tra due eroi che hanno perso la vita per combattere la mafia e un ragazzo che stava assaltando una jeep dei carabinieri. Scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Mettere Carlo Giuliani sullo stesso piedistallo eroico di Falcone e Borsellino non è stata una buona idea da parte di Nicky Vendola. Candidandosi a leader dell'intera sinistra, il presidente della Puglia, sempre immaginifico, con il suo eloquio dai toni iperemozionali, ha detto che la sua visione del mondo ha bisogno di eroi come Falcone, Borsellino e Carlo Giuliani. Un'equiparazione sbagliata. Falcone e Borsellino sono stati massacrati assieme alle loro scorte perché combattevano l'antistato mafioso. Carlo Giuliani è morto quando a Genova, nel 2001, un gruppo di manifestanti, un gruppo, non tutti i manifestanti, stava dando l'assalto a una jeep dei carabinieri con bastoni, spranghe, sassi, estintori, coperti da fazzoletti e passamontagna, in tenuta da guerriglia urbana. Falcone e Borsellino erano due veri eroi che hanno scoperchiato la cupola della mafia. Giuliani no, non era un eroe. Era un ragazzo degno di rispetto, ma non un eroe. Falcone e Borsellino erano e restano due esempi di dedizione e di impegno contro il crimine organizzato. Il comportamento di Giuliani, al contrario, non può essere di esempio. Fu solo l'antefatto di una tragedia, la vita di un giovane stroncata in circostanze drammatiche e che non si dovrebbero mai più ripetere. La comparazione di Vendola forse voleva essere il richiamo a un antagonismo politico e culturale oggi senza una rappresentanza politica e parlamentare e dunque afona, marginalizzata. È risultata invece una concessione a una retorica estremista, pregiudizialmente convinta che la morte di Giuliani sia stato un delitto di Stato e non il frutto più amaro di una giornata di scontri e di violenza. Un richiamo alle vecchie identità, una sottolineatura della propria natura di sinistra da contrapporre al moderatismo degli attuali vertici del PD. Invece è stato un incidente di partenza, un eccesso che finisce per alterare il significato di ciò che accadde a Genova, in piazza, prima della scuola Diaz, e finisce anche per svilire l'eroismo vero, autentico, di Falcone e Borsellino. Vero, e non riducibile a una battuta a effetto di un discorso elettorale. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista Se Vendola mette Giuliani tra gli eroi italiani, dal Corriere della Sera del 19 luglio. Dopo 22 anni torna in edicola Alfa Beta, la rivista culturale fondata da Nanni Balestrini. Ma con le sue manifeste fobie anticapitaliste, antioccidentali e anticlericali, rappresenta un'occasione persa per la sinistra, scrive Giulio Meotti sul Foglio. I nostalgici l'avevano chiamata addirittura l'ultima rivista del Novecento. Alfa Beta 2 sembra invece l'ennesima occasione persa per la sinistra italiana di rinnovarsi culturalmente. Il primo numero si apre su tre linee di pensiero: anticapitalista, anticlericale e antioccidentale. Torna dopo 22 anni il magazine di Umberto Eco e Nanni Balestrini. Si disse che era la più importante rivista di cultura di quelli che sono stati definiti gli anni di piombo, un periodico di arti visive e di cultura formato espresso, che usciva quando ne avevano voglia i suoi ideatori. La rivista si sarebbe trasformata in una sorta di organo degli intellettuali italiani del dissenso. Moderno e postmoderno, pensiero debole e pensiero forte, no all'irrazionalismo e all'antistoricismo, no allo strapotere della civiltà multimediale, di questo e altro si fece portavoce la prima Alfa Beta. Il primo numero della testata, edita da Messaggerie Periodici, presenta una riflessione sugli intellettuali italiani e ospita un editoriale in cui si spiega quanto segue. Il nostro tempo ci pare sia contrassegnato da una nuova emergenza culturale, antropologica, economica, dunque politica. Sfogliando la rivista si trovano poi attacchi alle omertà vaticane, sugli abusi sessuali, e si sostiene che il Vaticano si sia trasformato in una monarchia medievale che affonda gli occhi nel mondo civile, grazie all'ignavia e all'opportunismo dei governanti italiani. Non date una carezza ai nostri bambini è la giaculatoria di Antonio Loreto contro i gerarchi della Chiesa perché interrompano quest'orgia, perché siano pure il trombone della restaurazione, a patto che non tocchino i bambini e non diano una carezza allo spermatozoo per liberarlo dal preservativo. Secondo Loreto, le stesse cupole cattoliche sono simboli fallici, priapici glandi. La Chiesa, dice l'articolista, ha represso e depravato il giovane vitalismo della contestazione all'autorità in nome di una pedagogia fatta di botte e stupro, seguite dalla riduzione al silenzio della paura, in cui la parola recitata frustra la ricerca della parola, il pensiero. Non si è fatta molta strada dalle banalità della liberazione sessuale della prima alfabeta. Cesare Bermani attacca il metodo revisionista di François Furet, che scompose e ricompose il giacobinismo da cima a fondo, studiandolo per 40 anni, mostrandone la presa profetica, l'ideale e la struttura dispotica. Furet viene accusato da Alfabeta di ispirare il pensiero unico liberale e di essere l'ideologo dell'antipolitica. Per la nuova Alfabeta, Furet avrebbe avuto effetti devastanti. La feltrinelliana Silvia Balestra, in nome di un ingenuo marcusianesimo di riporto, attacca poi l'industria del libro di massa. Il terremoto di Haiti? Colpa della globalizzazione, perché nata così dalla globalizzazione Haiti non smette di morirne. Haiti avrebbe mostrato però la solidarietà dell'uomo della strada. I mondiali di calcio diventano semplicemente show capitalista. Non mancano attacchi al capitalismo assoluto e all'America dell'antifiscalismo patologico. Se le leggi Maroni sulla sicurezza sono perfetto razzismo di Stato, 70 anni dopo le leggi razziste del fascismo, non poteva mancare la voglia di blandire l'immigrato come altro perfetto, bastonando la nostrana ossessione per l'insicurezza ed elevando l'emigrante a eroe contro i padroncini del nord e i mafiosi del sud. Il politicamente corretto fa però scherzi di pessimo gusto. I migranti senza diritti per Alfabeta sarebbero allora i nuovi ebrei, come nella Germania delle leggi di Norimberga. La rivista si affida al medievologo Franco Cardini per l'invettiva contro l'Occidente, sinonimo di aggressione, occupazione e repressione. L'Occidente diventa allora vittima di un'infezione totalitaria espressa dal suo pensiero unico. È sinonimo del gruppo dei Perl, dei Wolfowitz, dei Kagan. Cardini parla dell'11 settembre come di un fatidico 9-11, che con i suoi 3.000 morti avrebbe avuto il merito di indurci tutti a un ripensamento profondo di questa superiorità. Una rivista culturale e politica che voleva tornare a scommettere con ostinazione ed entusiasmo sul valore inattuale dell'intelligenza, poteva e doveva fare di meglio che riflettere con sguardo ombelicale e autoreferenziale sul ruolo dell'intellettuale nella società e riproponendo un'agenda ideologica sepolta dalla storia. Alfabeta 2 è una sorta di pronto intervento culturale, fuori tempo massimo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti, Alfabeta 2 rinasce attorno a tre fobie, abbecedario di un'occasione persa, dal Foglio del 13 luglio. Per rimediare ai problemi di ricezione del nuovo iPhone 4, che perde parzialmente la linea se impugnato dal lato sinistro, Steve Jobs regala a tutti i clienti una protezione in gomma da applicare al cellulare. Ma i problemi creati dal nuovo gioiello di casa Apple, a pochi giorni dal suo lancio, sono solo l'ultimo capitolo di una lunga serie di flop digitali. Qualche giorno fa, Kevin Turner, direttore generale di Microsoft, si è lasciato sfuggire una dichiarazione. L'iPhone 4 è il Vista della Apple, che conteneva un'involontaria ammissione. Windows Vista, il sistema operativo lanciato dalla casa di Redmond nel 2006, è stato un accaporetto, fino al punto che quel marchio di fabbrica, oggi rimpiazzato da Windows 7, è diventato sinonimo di flop. La storia dirà se Turner aveva ragione oppure no. Steve Jobs ammette che nessuno è perfetto, ma i dati che ha snocciolato ieri sembrano andare in senso opposto. Dicono che il nuovo telefono avrebbe una ricezione addirittura migliore del precedente e che solo una ristretta minoranza di utenti si è lamentata. ma né il telefono di Jobs né Vist saranno gli ultimi capitomboli dei giganti della tecnologia. Gli esempi dal passato, del resto, abbondano. Nella storia di Apple c'è il Newton, il tablet ante litteram che avrebbe dovuto riconoscere la scrittura manuale, ma che ci riusciva solo approssimativamente. Forse perché concepito troppo presto, quando i microchip erano ancora troppo lenti, o al contrario, il caso dei telefoni satellitari Iridium, che avrebbero dovuto servire gli uomini d'affari Globetrotter, proprio nel momento in cui il GSM stava diventando uno standard mondiale, con copertura pressoché globale. Ma forse il caso più curioso è quello del Palm Foleo, un antesignano dei netbook che, annunciato a maggio 2007, viene ritirato dal mercato a settembre, una settimana prima del previsto lancio. I problemi dell'antenna iPhone, a sentire Jobs, sono di doppia natura: software, già risolto con un upgrade, e hardware. Il più clamoroso disastro software della storia è senz'altro quello dell'Ariane 5, il razzo dell'ESA da 7 miliardi di dollari che esplode nel 96, 40 secondi dopo il lancio, solo per colpa di un errore nell'algoritmo chiamato a calcolare il sistema inerziale. Ma che dire dell'Airbus A380? Il più grande aereo del mondo subì costosissimi ritardi perché la doppia squadra di ingegneri in Francia e in Germania, senza saperlo, aveva lavorato per anni sul sistema di CAD, Computer Assisted Design, usando due versioni diverse del software, parzialmente incompatibili fra loro. Quanto all'hardware, la Intel, come Apple oggi, si trovò in difficoltà quando una delle prime versioni del suo chip Pentium, per un difetto di costruzione, in alcune e rare occasioni sbagliava nel compiere le cosiddette operazioni in virgola mobile. La campagna di richiamo costò allora 475 milioni di dollari, anche se su questo fronte c'è a chi è andata peggio. Nel 1997 la Ford fu costretta a riparare 7,9 milioni di veicoli per via del sistema di accensione che rare volte prendeva fuoco. Ma quando si parla di elettronica di consumo, il più grande richiamo della storia risale al 2006, quando la Sony dovette rimpiazzare 7-8 milioni di batterie che altrettanto raramente si incendiavano. Infine ci sono i flop delle aspettative. Il veicolo Segway, due ruote e un manubrio per andare in città, era stato annunciato come una rivoluzione epocale. Non l'ha comprato quasi nessuno. E che dire di Second Life, il mondo virtuale dove pareva che tutti dovessero andare a vivere. Oggi è deserto e nessuno ne parla più. Proprio come è successo a Vista, in compenso parlano tutti dell'iPhone 4. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Magrini «Nessuno è perfetto. 20 anni di flop digitali» dal Sole 24 Ore del 19 luglio.